continuamente in fase di calore eccetera. Saremmo bene se fosse tutto stabilizzato ad una certa temperatura, magari sia l'inverno che l'estate, allora saremo veramente felici, ma non è possibile, purtroppo la natura decide da sola. E soprattutto non guarda in faccia a nessuno, quando individua un nemico lo estingue proprio. Ma poi, sia colpa dell'uomo, oramai se ne sono accorte anche le farfalle che volano, quindi quello è scontato. Ma in più c'è il fatto che, siccome l'uomo non è mai soddisfatto, oltre ad avere tutti questi casini di clima, di alluvioni, chi più ne ha più ne metta, non parliamo degli incendi, che ci sono nazioni che sono ormai devastate, cosa c'è come rimedio? Una bella guerra, visto? Ti hanno fatto pure la guerra. E non vogliamo dare un po' di colpa agli uomini, appena appena. Magari appena appena un po' abbondante anche, io aggiungerei, perché sicuramente l'uomo è il primo colpevole di questi eventi così, purtroppo. E vabbè, e cosa ci vogliamo fare? A proposito Gianfranco, ormai è un sacco di tempo che non ti sentivo, ma non solo a te, a tante altre persone, non sentivo più nessuno in frequenza, proprio perché accendevo, facevo anche spazzolata su tutti e 40 canali, ma niente da fare, non c'era mai un'anima. Come mai questa assenza così? Avevi altre frequenze da utilizzare? Beh, di norma quando non sento nessuno, anche ieri ad esempio, sono sull'inclinazionale digitale, quindi ero sull'Imbara, sul ponte che c'è all'Imbara, sto ascoltando il nord Italia, doveva essere, c'è un questo interessante, quindi ascoltavo lì. No, ancora prima purtroppo era per questioni di famiglia che ci abbiamo avuto una bellezza di quattro dutti, uno dietro l'altro, e quindi eravamo impegnati in altre cose di cui avremmo fatto volentieri a meno anche. Comunque, così è la vita e bisogna accettarla per quello che altro non si può fare. Questo mi dispiace, addirittura quattro luci uno dietro l'altro, e che diamine, caspita, non dico io cosa vuoi dire, faccio le condoglianze, no, non lo so se sia necessario, se ne avranno fatti in 10.000 persone come minimo, quattro luci uno dietro l'altro, caspita, questa è pura sfortuna di famiglia, oppure amici erano, cos'erano, familiari o amici proprio? No, era gente di famiglia, tutta gente di famiglia, o da una parte o dall'altra, però sempre della famiglia facciamo parte, anche se erano zii, se erano che ne so, cognati e così via. Comunque, vabbè, purtroppo è così, non ci possiamo fare niente. A quelle cose non c'è rimedio, caro Giulio, e purtroppo poi quando si inizia ad andare avanti con l'età è chiaro che queste cose non sono infrequenti, ecco, capita. Capita anche che purtroppo però è gente che non è molto grande, capito? Proprio alla soglia dei 70 e così via. Però succede anche quello. Ce ne sono molti, anche tra i colleghi è una falcidia continua. L'ultimo era avanti ieri, è andato al mare, si è sentito male e ci è rimasto. All'incirca credo 65 anni, alla faccia della pensione. Caspita, boh, non è possibile. Non è possibile, guarda, che la natura e che il destino si accanisca così fortemente su una famiglia. Boh, non è possibile. principe, oppure su una schiera di amici. Purtroppo sono cose piacevoli che noi non possiamo farci niente, come hai già detto tu. Purtroppo la sfortuna quando si accanisce è tremenda veramente. Ma comunque la vita deve andare avanti, questo è ovvio, è normale, no? Che la vita vada avanti. Certo, non è certo molto sopportabile un fatto del genere, soprattutto a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Speriamo bene nel proseguo della vita, cosa vuoi che ti dica Gianfra? Io non so cosa dire, a questo punto non so proprio cosa dire, guarda. Mi rendo conto che la sfortuna è il destino tuo e dei tuoi familiari, eccetera, eccetera. Insomma, non è certamente al momento molto fortunato. Vabbè, andiamo avanti lo stesso, Gianfra. Sì Giulio, non è solo, ti ripeto, non è solo il mio, non è una cosa isolata da quello che sento, perché tantissimi colleghi, anche giovani, quest'anno se ne sono andati, ma gente, stiamo parlando di persone di 60-65 anni, d'improvviso così, un malore, andati. Ma veramente tanti, quello che ti fa impressione. Nel mio caso almeno, comunque da tutte persone che almeno 70 li avevano raggiunti, ecco. Ma ci sono persone veramente che avevano anche bambini piccoli. Quindi, ma basta guardare anche quello che è successo ieri, no? Tutti quei giovani lì a 18 anni, un altro ne aveva 17, tutti fatti fuori un colpo solo, sbattuti al muro, e così. Sai com'è? Quindi bisogna guardare a quello che si ha, non a quello che si perde, perché c'è chi ne perde molto di più. Sicuramente sì, casi sì, bu. Va bene che anche qui, diciamo, in famiglia appartenente alla mia, paio di mesi fa, 2 mesi e mezzo più o meno, è morto il padre di mio genero, è morto con la scusa di andare a fare una passeggiata lì nei pressi di Platamona, così. È andato lì e purtroppo è morto, l'ha ritrovato poi il figlio che era andato a cercarlo, perché ancora non era rientrato a casa, l'aveva trovato morto a pochi metri dalla macchina, evidentemente aveva avuto un collasso e c'è rimasto lì. Purtroppo è così, a queste cose non c'è rimedio, noi non ci possiamo fare niente, magari potessimo fare qualcosa e poter imprimere la nostra volontà, ma purtroppo no, non possiamo. Vai Gianfra. Così è meglio abituarsi a queste cose, perché poi se no diventa una cosa un po' pesante, ecco, da gestire, perché poi oltre a queste cose ci sono anche le parti burocratiche che certo non ti vengono incontro. Ho sentito colleghi che, ripeto, anche loro sono stati bastonati forte, che hanno avuto delle sorprese gradite, perché poi sono andate al dunque a fare la tumulazione e si sono trovati con un bigliettino di presentarsi d'urgenza nella direzione. Ci hanno rimesso chi 5.000, chi 2.500, adesso c'è un collega ad esempio che è allarmato, subito è andato a controllare lì in direzione, 2.500, perché stanno scadendo le concessioni, no? Dei loculi, delle bombe eccetera, e quando succede qualche evento poi uno si trova così a dover pagare anche cifre importanti. Il mio collega ad esempio è arrivato un fuoco da 10.000 euro, O così, o se no ti danno lo sfratto anche ad Angelo Giulio. Dai, anche lì ti lasciano in pace. Sì, anche quello è vero. Sì, magari perché magari hanno preso un lucro e hanno un certo numero di anni che vanno in scadenza e poi non lo so se è la stessa cosa è per le tombe, questo non te lo so dire. Io la tomba di famiglia ce l'abbiamo, ne abbiamo due, una dove c'è mio padre e mia madre e anche i miei nonni, e l'altra invece dove c'è mia suocera e anche un mio cognato che è morto esattamente 20 anni fa, dai, mio cognato. E la tomba ce l'abbiamo 50 anni più o meno, dai, 51, 52. Insomma, quando era morta mia suocera avevamo comprato la tomba, e c'è lei e poi c'è anche mio cognato, il marito della sorella di mia moglie. Però ancora noi non abbiamo ricevuto niente, non so se anche quella la possono riprendere il comune, questo non te lo so dire, ho già fatto, ma suppongo di no, però so che sono solamente per i luculi queste cose qua. No Giulio, sono per tutto, anche per le tombe, anzi oserei dire soprattutto per le tombe. Solo che c'è una distinzione, dipende dall'epoca in cui sono. Ad esempio le nostre due fortunatamente sembrerebbero perpetue, quindi hanno fatto il contratto, all'epoca si poteva fare, adesso non si può più fare, per comprarti proprio, diciamo così, il terreno, lo pagavi e lì ti veniva fatta la tomba, cioè proprio comprato, poi è uscito che non si poteva più fare, quindi hanno fatto questi contratti a 30 anni che ovviamente scadono, e non dalla data del decesso ma dalla data del coso lì, del tempo in cui tu hai firmato il contratto. Capito? Quindi c'è questo problema che molti non sanno, però se uno va a sfangiretto vede che ci sono sulle lapidi tanti biglietti con scritta attenzione, questa tomba verrà esumata tra un mese, se nessuno si presenterà, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ne ho visto anche a Tigre, tanto è vero che ad esempio sul muraglione che va verso San Paolo, io ci sono stato ieri e ho controllato delle cose e ho visto che praticamente sono tutte targate 2022-2021, tutte nuove, quelle che c'erano prima, soprattutto di Luculi, perché sono quelli numericamente più numerosi, si vedono tante cose nuove, prima c'era il bigliettino, evidentemente le hanno fatte sgombrare, le hanno sgombrate, quindi sono passate di proprietario, ecco. Ho capito, diventa proprietario del comune perché vengono espropriate. Io diciamo che guardi, 2 mesi fa praticamente, quando era morto il padre di mio genero, io mi sono avvicinato sia nell'una che nell'altra tomba di famiglia, tutto procede come sempre, insomma, ecco. Soprattutto quella dove c'è mio padre e mia madre, lì quella addirittura, non dico che è secolare, ma quasi, nel senso che lì era la tomba dei miei nonni, che poi ci sono loro anche lì, praticamente sono i genitori di mia madre, e adesso c'è anche mia madre, lì è anche mio padre, in quella tomba lì, mentre l'altra invece, quella più recente, l'avevamo acquistata, l'avevo acquistata io 50 anni fa, 51 anni fa, 52 più o meno quasi, quando avevo avuto l'incidente mia suocera, e c'è lei, e poi successivamente da 20 anni a questa parte c'è anche mio cognato, perché è una tomba a 5 posti, e vabbè, purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Riprendi già fra. Sì. E mi hanno detto pure che c'è stato, sai, soliti tutti assessori, i soliti, insomma, ci siamo capiti, no? Che volevano che fossero espropriate anche quelle antiche, diciamo, quelle perpetue cosiddette, in cui tu hai pagato per, forse per quelle magari hanno messo solo l'opzione nel caso siano abbandonate, cioè se sono tutte rotte allora te la possono espropriare, però se è tenuta bene in maniera decorosa eccetera eccetera allora non le toccano. Infatti noi ci siamo molto attenti a quello. E quindi la proposta loro, maledizione, l'hanno fatta, perché ovviamente stiamo parlando di soldi e anche di cifre importanti, capito? Infatti non conviene oramai, la maggior parte dei funerali si concludono quasi tutti con la cremazione, perché con la cremazione è la possibilità comunque di sfruttare il loculo, la tomba, perché ce ne stanno tanti, capito? Quindi occupi un posticino senza andare di lì a richiedere altri loculi e in ogni caso non sono tuoi mai. Tutto lì, e molta gente sta facendo così, perché sennò, ripeto, non tutti si possono permettere di affrontare quelle spese che vorrebbe il comune, capito, che è sempre a favore dei cittadini. Sì, lo so, anche perché il terreno a disposizione per il cimitero incomincia anche ad essere, diciamo, un po' scarso, tant'è vero l'avevano allargato ancora, possano andare oltre quei terreni lì, perché lì poi non lo so se la gente può vendere o se il comune può espropriare per allargare sempre di più il cimitero. Quel sistema lì della cremazione è fatta soprattutto anche per quello e diciamo anche per evitare conseguenze spese, perché quando uno ha una tomba si sa, la tomba la deve mantenere bene, la deve mantenere pulita, la deve mantenere ordinata, come stai dicendo tu, perché se no diventa un mondezzaio, diventa, e allora a quel punto lì secondo me è anche giusto che intervenga il comune, perché tu in un posto come il cimitero non puoi mantenere una tomba tutta in disordine, tutta sporca, tutta magari coperta di vegetazione eccetera, assolutamente no. È giusto anche che venga data una certa manutenzione, è normale, no? Anche per il decoro soprattutto del camposanto o di opera. Infatti, io se proprio volevano guadagnare qualcosa avrei fatto un'altra iniziativa, ad esempio quella di fare una specie di abbonamento, ovviamente un abbonamento non costoso, non troppo costoso, accessibile un po' a tutti, in modo da prevedere per un tot d'anni una pulizia a conto del comune. Almeno avrebbero preso degli operai, dato lavoro e allo stesso tempo incassato anche qualche cosa per mantenere le famiglie. È stata una bella iniziativa, tenendo presente che ci sono famiglie anche che non esistono più e quindi magari le davi oltre 30 anni, qualche anno in più, col decoro comunque, tenendo le cose bene, in più dando anche lavoro, dando lavoro a chi ne ha bisogno, ecco. E di lì allora sarebbe stato giusto magari pagare qualcosa, un abbonamento all'anno, ma anche volontario, e vedere un po' tutto lì. Sì, e devo dire che sono anche spese molto salate, oggi so che costano moltissimo, anche nel senso un loculo oggi costa un sacco di soldi, non è più come prima, vabbè, facendo sempre il confronto della moneta di prima con quella di oggi, probabilmente la difficoltà era la stessa anche allora, perché io mi ricordo quella che ho comprato io costava quasi 400.000 euro, ma sto parlando di oltre 50 anni fa, 400.000 euro per cui non è una cosa tanto, non era una cosa tanto facile anche allora. Vabbè, comunque vedremo un po' come si evolvono i tempi e cosa decido di fare. Mentre l'altra l'abbiamo ereditata dai nonni, quella dove c'è appunto mia madre e mio padre, mentre invece l'altra nonno, l'altra quella è in un lucro, anche quella è oltre 50 anni, nessun avviso ci hanno mandato, niente, c'è sempre lì tranquillamente, il lucro naturalmente sempre tenuto in maniera decorosa, io però, perché se no, come stavi dicendo tu, allora è giusto anche che intervenga il comune in caso non fosse tenuto bene. Vai. Sì. Comunque Giulio erano 400.000 lire, perché se mi dici 400.000 euro probabilmente cioè, c'è un palazzo come tomba, sarebbe una cifra enorme, 400.000 lire dell'epoca, che comunque erano soldi. E niente, giù. Anche morire non conviene, guarda, anche quella è una spesa, quindi boh, non so che pesce prendere, è che non lo puoi dire, diciamo non muoio perché non c'ho i soldi, capito, quelli del piano di sopra non sentono ragione, dicono vabbè, finisci per strada, finisci per terra, però noi ti vogliamo su. Sì, è vero, vabbè, ormai siamo abituati all'euro, e ho detto per quello, così, 400.000 euro, no, 400.000 lire, che è diverso, molto diverso, Gianfra, è vero, hai ragione, hai fatto bene a farmelo notare, perché non me ne sono nemmeno reso conto, ho detto 400.000 euro, cose impensabili, oggi. Va bene, dai, comunque, la vita purtroppo è così, oggi ci sento, io poc'anzi stavo leggendo al computer delle ville che ci sono qui in Sardegna, addirittura ci sono 6 ville che sono fra i primi 10, addirittura adesso non ricordo bene se in Italia o in Europa come valore, una addirittura 19.500.000 euro, e poi ce ne sono altre intorno ai 18 milioni, altre ancora 15 milioni, e queste sono 6 ville che ci sono in Sardegna e sono fra i primi 10, adesso però non ricordo se era tra i primi 10 in Italia o in Europa, o questo non me lo ricordo, stavo leggendo proprio poco fa, un'oretta fa. Sì Giulio, ma tranquillamente anche in Europa, se non ho qualche volta anche nel mondo. C'era quella gigantesca, non so quanti ettari era, di quella che hanno sequestrato la finanza, di quell'oligarca russo, quella lì c'ha un valore enorme, quindi ce n'è, anche quella villa lì che c'ha Berlusconi non è da meno, quelle c'hanno l'eliporto personale, c'hanno il molo, quello yacht, ne hanno. Vabbè, e comunque Giulio, sì, qua una cosa, noi che ci abbiamo semplicemente la casa dove viviamo, stiamo bene lo stesso, ci accontentiamo e forse ci abbiamo anche meno grattacapi, viviamo più felici. Sì, probabilmente sì, infatti, ma io ho sempre sentito dire, e questo è un detto che secondo me si è sempre verificato più volte e continuerà sicuramente a verificarsi, dove c'è tanta ricchezza ci sono anche tanti debiti. Questo è un detto che ho sempre sentito da quando ero ragazzo io, per cui non c'è da meravigliarsi che oggigiorno questi grandi miliardari che hanno tantissimi soldi, però hanno anche magari tanti affari in giro per il mondo, per la quale vi portano anche tantissimi debiti, che poi naturalmente riescono a far fronte a tutti i debiti perché hanno dei grossissimi guadagni, però vanno di pari passo, la ricchezza va di pari passo anche con i debiti che hanno, questo non so se sia giusto o meno, però l'ho sentito dire tantissime volte questo particolare, questo io più che in termini di debiti la vedrei in termini di felicità, ecco. Non è una questione di soldi avere la felicità, certo i soldi aiutano a risolvere tanti problemi, tante cose, però non è detto che facciamo la felicità, tant'è vero che vedi tanta gente che non vive bene, quindi è così. Non dico che è meglio essere poveri, però diciamo la cosa migliore è poter campare senza troppi grattacapi, ecco, col proprio lavoro, onestamente, e senza grandi pretese, ecco. E magari la felicità è anche maggiore, anche perché ti sei fatto tutto da solo e quindi non hai mai sfruttato nessuno, come molti ci sono purtroppo. Tutti gli introiti sono del tuo lavoro e basta, capito? Sei contento anche per quello. Certo che sì, anche quello è vero, c'è anche da aggiungere al discorso che ho fatto prima, c'è anche da aggiungere che chi ha fatto tanti soldi, perché probabilmente ha sfruttato anche molto un po' l'umanità, anzi un po' troppo l'umanità, perché fare soldi da solo io ritengo che sia proprio impossibile, al massimo può farsi una piccola, diciamo, patrimonialità, ma a livello sempre ragionevole, non così grande come certi miliardari che esistono nel mondo stesso. Prendi tu ad esempio quell'imbarcazione che da poco si è incendiata, 25 milioni costava, che adesso non mi ricordo che imbarcazione era, di un miliardario, ma dimmi tu, se uno deve avere tanti soldi per comprarsi un'imbarcazione da 25 milioni, eppure esistono, non solamente da 25 milioni, ma che se ne compreranno più di uno e più di due, e anche a livello di aerei, eccetera, eccetera, o di isole intere per conto proprio. Poi cosa se ne fa uno? Come fa a godersene tutta la vita di un patrimonio così grande? Non riesco nemmeno ad arrivare a capire come possa fare o già fa. Cosa vuoi che ti dica? Pare che sia la meta preferita di molti, queste ricchezze così quasi oscene, e poi sono presi sempre anche molti, no? Chissà quanti ne ho conosciuto, come si diceva in sassarese, che quando spesso era fiduciazzato, quindi provenivano anche non da ricchezze familiari portate avanti negli anni, ma da cose un pochettino strane, diciamola così. E spesso poi era gente avara, no? gente che tendeva a sua volta a sfruttare le persone in ogni maniera possibile e immaginabile, perché ci aveva sempre paura di perdere i soldi, un po' come l'avaro che ha fatto Alberto Sordi, no? Te lo ricordi? Quello sì, è vero. Ad esempio, io un po' di tempo fa, non molti giorni fa, c'era stata una dichiarazione che affermava che era, sto parlando della moglie di Bonolis, che lei quando doveva partire non doveva fare delle file, eccetera, andava con l'aereo personale, se doveva andare a Milano per dire a comprare un paio di scarpe alla figlia o al figlio che fosse, prendeva l'aereo e ci andava. Ma quanto sei deficiente e cretina, fai pure quello che puoi fare, nessuno te lo proibisce, ma tu che lo venga poi a spifferare così in televisione, farlo sapere al mondo intero che tu hai l'aereo personale, sei proprio una deficiente, tu sei povera di mente, ricca di squadrini ma poverissima di mente. Io la penso così, Gianfra, questa è passato, è vero. Purtroppo c'è anche questa gente, ma già mettere, diciamo, in già fare vedere questo sfoggio di ricchezza, manca di umiltà, manca di tutto, quindi la gente cosa può pensare? Ci ha fatto una pessima figura, e quindi non è neanche commentabile, guarda. Cioè, cosa c'è da aspettarsi? Cosa può produrre di buono, qualunque, una persona del genere? Sembra che poi ci tengano anche, ci tengono molto a darsi la martellata in testa a queste persone, perché non sanno veramente quello che stanno dicendo. Comunque, contenti loro, contenti tutti, poveri scemi. Sì, in effetti, perché la fortuna si è girata dalla loro parte in maniera esagerata e hanno avuto modo di arricchirsi in questa maniera, non tanto lei ricca, magari il marito che ha arricchito lei, ma per dire, ma poi andare a vantarsi in televisione che lei quando deve sposarsi non deve fare la fila da nessuna parte perché va e prende l'aereo personale, ma sì, è una grandissima deficiente, proprio un'ignorantona, proprio a tutti i livelli. Non sei certamente una persona umana, sei semplicemente un verme umano che si vanta così alla faccia della povertà di tanta gente che sta morendo anche di fame, brutta, miserabile che non sei altra. Io la penso così, la sputerei in faccia io una persona, trovandomela di fronte e sentendo dalla loro bocca certe affermazioni, figurati. È come la famosa frase sempre dal marchese del Grillo, no? Quando vanno per arrestarlo in quell'osteria e lui subito si qualifica: io sono il marchese del Grillo, delegato di sua santità. Arriva subito il pezzo grosso e dice: ah, mi scusi marchese, non sapevamo, eccetera, gli altri, e noi? E dice: io sono marchese e voi non contate un cazzo, praticamente le dice, no? Non so se te lo ricordi, e in effetti all'epoca succedeva così. Sì, ancora oggi ce ne sono tantissimi di questi, questi sono degli sbruffoni e basta, no? Non sono persone di una certa intelligenza, assolutamente no, sono persone degli sbruffoni, io posso capire, vedi, lo stesso Berlusconi sappiamo benissimo quello che ha fatto, cosa ha fatto soprattutto a Milano, tutto quello che ha costruito, eccetera, però devo dire che è anche molto, ma molto generoso, perché ha sperperato e dato soldi un po' a tutti, ha aiutato un mucchio di persone aiutate. Eppure così sbrucco i livelli non l'ho mai sentito, perlomeno a me non mi risulta, o Giofra. Io penso che sia così, a differenza di tanti altri magari che sono nei confronti di Berlusconi anche dei pidocchiosi, premesso che anche quelli possono essere ricchi, però non ho mai sentito Berlusconi vantarsi in quella maniera, che lui ha fatto, che ha parlato politicamente, tutte queste cose sì, perché è quella della politica e basta, però che abbia fatto lo sbruffone dicendo io ho questo, io ho quell'altro, questo non mi risulta, perlomeno io non l'ho mai sentito. Sì, no, Berlusconi, diciamo, ha il cattivo gusto sempre di, e vorrei che fosse per l'età e non per altro, ma mi sa che per altro, di non azzeccare quello che dice, ecco, in parole povere. Infatti poi entra, si scusa, no, ma io non volevo dire niente, come non volevi, non voleva dire quelle cose, ha detto tu, mica hanno detto gli altri, e quindi si fa passare quasi per mezzo rincoglionito, probabilmente lo è anche. Cioè queste cose, questi atteggiamenti, veramente assurdi. E poi un'altra cosa che le manca è anche il buon gusto di mettersi da parte, come dice Asco. Io oramai ho, non so quanti anni ho, abbia 85, 86, di dire: ragazzi cari, arrangiate, che ho fatto quello che potevo fare, adesso mi ritiro nella mia casa, me la godo con i miei nipotini, con il mio cane, fate quello che volete, eccetera eccetera eccetera. E invece purtroppo a quanto pare non è così. Ecco, quello è il difetto suo. Sì, anche lui è sempre stato una rivista, lo sappiamo. Lui vuole sempre arrivare e andare sempre più in alto, ma ormai ho 86 anni, quasi quasi non riesce più a parlare, perché quando parla sputacchia anche, tra l'altro, non so se ne si è reso conto. 86 anni, in effetti è vero, è un po' rimbambito, almeno dalle apparenze, ha anche qualche difficoltà nel camminare, forse ha qualche problema alle ginocchia, non lo so, però almeno se non altro è stato generoso con tanta gente che l'ha aiutato, anche se per suoi interessi personali o magari di questione sessuale, che ne so, so solamente che tanta gente l'ha aiutata e sta anche continuando ad aiutare, perché offre di beneficenza ne ha fatto sempre, questo bisogna ammetterlo. Poi il fatto che sia un pochino deficiente, nel senso che anche l'ultima affermazione che ha fatto nei confronti di Mattarella, Presidente della Repubblica, e poi ha voluto correggere il tiro, che non intendeva quello, ma l'affermazione che ha fatto capire benissimo che poteva essere lui Presidente della Repubblica, o che avrebbe attirato, dandosi le dimissioni, Mattarella avrebbe potuto pensare di diventare lui Presidente della Repubblica, cosa che non ci arriverà mai, almeno io penso così. E anche perché diventeremo lo simbolo del mondo, poi un mezzo maniaco, un presidente della Repubblica mezzo maniaco sessuale, sì, di bene, di carità ne ha fatta tanta, tipo a quelle ragazze lì di 18-20 anni dello Giattina, che le lasciava in questo albergo e le dava lo stipendio. Non so se Papa Francesco le potrebbe definire beneficenza, però comunque diciamo che era una regalia, dai, ogni mese, quant'erano, 1.300-1.400 euro al mese. Sì, ma si è parlato anche di 2.000-2.005, e vabbè, quello lì era una ricompensa le orgette che lo illudevano magari sessualmente, che ne sai, non credo che a quell'età poi potesse essere molto, molto attivo, nonostante tutte le possibilità oggi che ci sono nel mondo per la cosa, come si dice, la prepotenza sessuale. Sempre 86 anni hai, cosa vuoi fare, anche se riusciva ad arrivare in qualche maniera, ma non più di tanto, suppongo, o già fa. Perché anche lui è come tutti gli altri uomini del mondo, vai. Ma tu la sapevi la barzelletta di Berlusconi? Che muore. La barzelletta che muore, no, muore sicuramente a livello di padiglione basso. No. Anche lui, come tutti noi, è destinato a morire, no? Quello è ovvio. Allora lui muore, e cosa succede? Che ovviamente sale ai piani alti incontra San Pietro, e San Pietro le dice: oh carissimo cavaliere, l'aspettavamo con ansia, te la ricordi quella, no? No, cioè che era cavaliere di Braghetto, puoi intendere? No, no, adesso te la dico tutta. Allora, sale su, dove c'è San Pietro, San Pietro lo riceve con tutti gli onori. Carissimo cavaliere, l'aspettavamo. Ascolti, siccome capiamo che lei è una persona molto importante, e quindi guarda, la vogliamo far scegliere. Sotto c'è ovviamente l'inferno, sopra c'è il paradiso, e quindi scelga lei dove vuole andare. Nel frattempo le può visitare tutte e due. Mi dice l'ascensore, vada con calma, guardi bene e poi torna qua e ci dice come cosa scegliere, ecco. Quindi anche da San Pietro anche quel privilegio. Prende lui, inizia dall'inferno, giustamente preme il tasto, e va giù al piano inferiore, diciamo. C'è un po' di caldo, è la verità, però inizia a vedere tutti i suoi amici, tutti festeggiando. Non ti dico in questo posto cosa stavano facendo, Giulio, ragazzine, insomma, hai capito, no? Mangiando porcetti, agnelli, tutti i cibi possibili e immaginabili, eccetera. Lo abbraccio, Silvio, vieni con noi, rimani qua. Ragazzi, no, guarda, è tutto molto bello, è tutto molto bello. Però Pietro mi ha detto anche di guardare su all'ultimo piano, quindi adesso guardo su e poi saprete se cosa scelgo. Prende Pietro, preme il tasto e sale su all'ultimo piano, si apre la porta e vede tutta questa gente con gli occhi in cielo, felice, tutti luminosi, tutti vestiti di bianco, no? Pregando, eccetera. E li guarda e dice, ma questi stanno sempre così, un po' perplesso, no? E lui dice, preme il pulsante di mezzo e ritorna a San Pietro. E San Pietro dice, ebbene Silvio, hai deciso? Sì, ho deciso, ma guardi, al piano di sotto ci sono tutti i miei amici, ho visto che ci sono feste, che sono trattati bene, eccetera. Il piano di sopra è un po' noioso. Io non ci sono abituato a quelle cose, capisco, lo sapevo, va bene, si può accomodare, vadi, preme il piano, scende giù, di nuovo si riapre la porta che porta all'inferno. Appena aperta la porta ti vede questo qua rosso, enorme, con le corna, con questa frusta, frustando tutti, e lui perplesso, e che è successo? Come mai? E il diavolo le dice, perché cosa ti aspettavi? Io sono venuto ieri, era tutto festa, tutto orge, tutto no, ma ieri era periodo di elezioni, quindi promesse se ne facevano tante, capito giù? Non è possibile, ragazzi. A lui conveniva fare le orgette, perché ricavava suffragi. Ma ormai anche lui è finito. Adesso vediamo in questa nuova votazione il 25 settembre che cosa succede, ma mi sa che non prende tanti voti, perché alcuni suoi militanti dello stesso partito l'hanno anche abbandonato, perché forse lui vuole continuare a fare il padrone del partito, ma non si rende conto che ormai lui è arrivato già da un bel pezzo e deve lasciare spazio anche agli altri. Però non lo vuole fare perché, come ci avevo detto prima, è una rivista e basta. Questa gente così, purtroppo, però lasciamo andare avanti, tanto anche lui è un povero diavolo arrivato a questa età. E comunque a lui fanno scegliere, però tanto sceglie sempre quella sbagliata. Beh, da quello che si vede probabilmente vincerà l'estrema destra, quindi la Meloni, il che potrebbe significare veramente l'arrivo di tempi molto molto duri, perché questi fanno tante promesse che però guardando il portafoglio poi sono irrealizzabili, soprattutto in un paese come l'Italia che c'ha tanto debito. Poi l'Europa ci mollerebbe e quindi andremo di male in peggio. Comunque, vabbè, è così Giulio, vediamo un po' cosa succede. Tanto, come detto prima, noi siamo dei meri spettatori oramai. Sì, beh, noi non ci possiamo fare niente, siamo semplicemente degli spettatori delusi da questa gente che ci ha sempre amministrato, ma da tantissimi anni a questa parte, no? Non è possibile che si possa continuare in questa situazione, in queste condizioni. Vedremo un po' se questi vincono, stando ai sondaggi dovrebbero vincere anche la grande, però i sondaggi sono una cosa, poi la realtà delle votazioni sono un'altra. Vediamo un po' cosa succede, cosa vuoi che ti dica Giafra. Poi le promesse, si sa, hanno sempre lasciato il tempo che trovano, perché tutti promettono la stessa cosa, tutti dicono che abbassano le tasse, però queste tasse non si abbassano mai, anzi aumentano sempre, chissà perché, però in campagna elettorale tutti quanti promettono che abbassano le tasse, che aumentano gli stipendi, che aumentano le pensioni, che non ci sarà patrimoniale, che tolgono l'IRA, perché e tutte queste cose qua, tutte le promettono, poi alla fine risultano tutte nel tempo sempre aumentate di più, non è possibile Giafra. Ma io l'ho sempre detto, la politica è la maledizione dell'umanità, questo è scontato e nessuno me lo toglie dalla mente, guarda, perché i politici hanno sempre sfruttato l'umanità, sia quelli più forti che quelli più deboli. Dunque, certi uomini hanno sempre sfruttato l'umanità, in se stessa la politica è un'opera, diciamo, nobile, o perlomeno tale dovrebbe essere. Purtroppo bisogna essere capaci a fare il politico, e noi di gente capace non ne abbiamo, perché prendi, che ne so, Berlusconi, non è capace di fare politica, non è un leader che si possa affermare a livello internazionale, per molto meno in altri paesi, se facciamo quello che ha fatto lui, non dico che sarebbe in prigione, ma giù di lì, sarebbe giù di lì. Se poi prendiamo, che ne so, un Salvini cosa sa fare? A parte con questa litania mattina e sera degli immigrati e degli extracomunitari, da lì non esce. Capito, tutti i discorsi che fanno presa sulle persone meno preparate, meno intelligenti anche. Tutto il mondo è rimasto a bocca aperta perché ha detto, caspita, l'Italia ha mandato via Draghi, nessuno che ne ha trovato capace, ce l'hanno pure mandato via, quindi figurati quali sono i presupposti. I presupposti futuri, Giulio, tieni anche presente che comunque Draghi, insomma, soldi ne ha dato, non possono criticare, quindi nonostante tutto l'hanno mandato via perché hanno detto, mannaggia, se gli italiani si accorgono che questo, non essendo politico, sa fare bene le cose, guai, siamo rovinati, perché a noi non ci leggono più, ci mandano via. Sì, beh, indubbiamente, però ci sono anche troppi contraddittori fra di loro, con le idee politiche, ad esempio, diciamo che la decadenza di Draghi è incominciata con il 5 Stelle, quando ad esempio Di Maio si è staccato, e quello lo sta, quello lì è stato l'inizio del decadimento di Draghi, però poi c'era il sostegno del PD e secondo molte idee andava bene, ma oggi dico questo, se prima hai criticato, per dire, Di Maio, perché ha dato inizio alla decadenza dei Draghi, come mai PD tu Letta oggi ti allei proprio con Di Maio per cercare di avere voti, per rimanere sempre in sella? No, non è possibile, guarda, la politica, ecco per quale motivo dico io che la politica è la malasorte dell'umanità, perlomeno della parte del popolo medio-basso. Per non parlare poi anche del fatto che ce l'hanno in maniera così accanita contro la Meloni, permesso che io non mi intendo di politica e non me ne frega niente nemmeno di capirne più di tanto, però ritengo che Meloni sia una fascista, ora sia anche, io questo non lo so, ora sia anche, solo perché c'è il simbolo della fiamma, ma intanto consideriamo questo ragionamento un attimino. Meloni ha 45 anni, no? E il fascismo è finito 80 anni fa, per cui che il popolo di sinistra butti fango sulla destra, soprattutto sulla Meloni, dicendo che è fascista, non mi sembra così proprio appropriato come forma politica, perché è assurdo che si possa essere così accaniti contro questa donna che secondo me alle volte dice delle cose giuste, a differenza di altri, che poi tra l'altro come partito è coerente, a differenza di Salvini ad esempio e anche di Berlusconi stesso, per cui non lo so fino a che punto abbia ragione la sinistra quando critica così affermamente la Meloni, questo non lo so, premesso che a me non me ne frega niente, né di Meloni, né di Berlusconi, né di Salvini, tanto a votare non ci andrò, sicuramente non ci andrò, anche perché devo rinnovare la tessera che ormai è stata completata di timbri e dunque dovrei, ma non me ne frega niente, guarda, vai Gianfra. Infatti vincerà il partito più grande, che è quello dell'astensionismo, ma io la penso più o meno come te, a parte il discorso Meloni. Il discorso Meloni, se uno sempre, ripeto, perché bisogna guardare le cose anche con un pochino di lente di ingrandimento a volte, soprattutto perché qua in Italia c'è molta gente che non vede bene. La Meloni razzola bene in casa, ma se tu ti ascoltavi il discorso che ha fatto in spagnolo quando è andata a Madrid, uno si metteva le mani nei capelli, se non era fascismo quello non so quale si possa definire, perché era proprio a livelli, insomma, le mancava solo il saluto romano ed era fatta, proprio delle proposte antidemocratiche, antieuropee, e di stile tipicamente, insomma, ci siamo capiti di quell'epoca. Certo, io sono convinto che vincerà le elezioni, ma sono convinto che farà un danno al paese di proporzioni anche non indifferenti. Riguardo a Letta, poi direi che è meglio proprio mettere una pietra tombale, perché abbiamo tutti capito, anche i bambini adesso hanno capito, che Letta vuole perdere le elezioni e non sa come fare. Lui dice speriamo che non ci votino, io ho fatto il possibile per far sì di non vincere neanche la metà delle elezioni, non solo tutte le elezioni, perché fa proposte fuori luogo, è veramente idiote, quindi politico anche quello da supermercato, da monopoli, da quelle cose lì, non certo in grado di fare un Presidente del Consiglio, ma neanche per scherzo. Poi tutti gli altri sono a seguire, non è che se tu fai la contestazione che hanno fatto molti, che faccio anch'io, che questa gente non è neanche riuscita a fare un Presidente della Repubblica, hanno dovuto chiamare di nuovo a Mattarella, che le starà mandando tante di quelle maledizioni, perché lui voleva fare il nonno, voleva stare con i nipoti, con la figlia, e invece lo costringono lì a andare, venire, per carità, poveretto. È così. Lo so, questo è vero, premesso che io sinceramente non saprei chi potrebbe fare il Presidente della Repubblica, e tantomeno chi può fare il Presidente del Governo oggi come oggi in Italia, perché come hai detto tu anche poc'anzi, non c'è un uomo o una persona o un partito addirittura in grado di governare questa Italia tutta sconquassata in una maniera assurda veramente. Questo è vero. Poi tornando al discorso di Mattarella, vabbè, l'hanno voluto richiamare, va bene così, ma anche lui prima categoricamente aveva detto che non si sarebbe più interessato a fare presidente, nonostante le voci che lo acclamavano ancora che per rimanere eccetera. Allora cosa ha fatto? Ha preso e ha voluto presentarsi per ancora un anno, poi da questo anno sono diventati più anni, adesso sono diventati 7 anni. Il fatto è questo, che anche lui lusingato dai 250.000 euro l'anno di stipendio, che poi l'hanno aumentato di 30.000 euro proprio da poco, sono diventati 280.000 euro, anche lui ha riflettuto un attimino e ha detto: ma perché li devo perdere questi 280.000 euro l'anno? Io la penso così, per me è sempre una questione di soldi. Indubbiamente è una grande persona, non ci sono dubbi, io questo lo ammetto, come ce ne sono altri, però oggi in grado di fare presidente sia della Repubblica che del Consiglio, per conto mio non ce n'è nemmeno uno in grado che lo possa fare in Italia. Sì Giulio, guarda, quella del lato economico non credo che sia la cosa più importante, anche perché essendo Presidente della Repubblica deve avere, cioè quelli sono decisi ad altri livelli, ecco, gli stipendi, non se lo fa lui lo stipendio, e comunque considerando anche l'età, anche il coso, lui è dovuto rimanere perché gli è stata data dal Parlamento, come dice la Costituzione, quella responsabilità, capito? Ora come ora, anche volendo, non se ne può andare, perché c'è una situazione grave, si è trovato in mezzo a una banda di veramente di gagliuffi, così come anche Draghi. Ma Draghi secondo te c'ha bisogno di soldi? Ha preso e se n'è andato, perché ha detto: questi sono dei bifolchi, sono dei pirati, sono degli avventurieri, non hanno capito niente. E la stessa cosa avrebbe voluto fare Mattarella, ma lui non lo può fare, perché lui è il garante della Costituzione, e già parecchie volte la Costituzione è stata minacciata proprio da questi personaggi, e quindi ha sentito in pieno la responsabilità in quanto ex Presidente della Repubblica, che ripeto, lui sicuramente se ne voleva stare con la sua famiglia fuori dal scatto, e questi gli ultimi giorni con la famiglia che giustamente si sarebbero aspettati. Invece questi banditi, questi pirati, siccome non sapevano che pesce prendere, lo hanno costretto, come anche prima d'altronde avevano fatto con Napolitano, che comunque Mattarella è molto meglio. E quindi questo uomo se ne andrà, se probabilmente se ne morirà lì, vedendo quello che succede, perché non ti credere che il Presidente della Repubblica sia una persona messa lì per fare bellezza, riceve migliaia di telefonate, migliaia di impegni, andare lì, andare su, andare giù, ma chi gli va, zi va. Vabbè, Giulio, ti devo lasciare, è venuta l'ora. grazie per il lungo questo e ci sentiamo. Buon Ferragosto. Ok, grazie a te Gianfra, anch'io ti ringrazio per il lungo questo. Devo ritenere che è stato anche piacevole finalmente, dopo un bel po' di tempo abbiamo fatto questo e non abbiamo detto cretinate come generalmente si sentono in frequenza. Grazie ancora Gianfra, buon Ferragosto anche a te, buon pranzo quando lo farai, alle prossime, dai, stammi bene, a presto risentirci, ciao Gianfra, ciao. Ciao Giulio, per la cronaca qua ogni tanto si sente tuonare, ci deve essere un temporale in avvicinamento, infatti ho già staccato le altre antenne. Ciao Giulio, ancora buon pranzo. Sì, ok Gianfra, sì, anch'io ti volevo dire anche quello poc'anzi, nel penultimo passaggio che avevi fatto, perché era arrivato una scossone, diciamo, meteorologico insieme alla tua modulazione, con un QRM altissimo che quasi quasi ti copriva, nonostante il tuo Santiago 995 con una radio abbastanza buona, ottima veramente di lì. Ok, ciao di nuovo Gianfra, buon pranzo, alle prossime, ciao. Sì, infatti si sta avvicinando, adesso sono più frequenti le scariche, speriamo che non ci siano anche i fulmini, che quelli fanno abbastanza male ultimamente. Ciao Giulio ancora, alle prossime. Ciao, ciao Gianfra, buon pranzo, ciao.